Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, come va? Eccoci qui. Sì. Eccoci qua. Eccoci. In questo sabato, stavo dicendo. Ma per me è un sabato. Adesso perdono dei punti di riferimento qua. All'inizio martedì della settimana. 22 dicembre. Allora, che santo è oggi? Oggi è Santa Francesca Cabrini, che è la prima santa americana. In realtà era italiana, italoamericana, quindi è la santa che si occupa poi degli italiani, degli emigranti, eccetera, eccetera. Però siccome è la prima canonizzata, allora gli americani la sentono proprio come la propria santa, più che italiana. E funziona come ieri, cioè se una Francesca vuole celebrare oggi e si sente vicina al Santa Francesca di vuol dire di che oggi sente per sé una vocazione per i poveri, per dare una mano, per organizzare dormitori, cibo, cioè era una tra virgolette santa sociale, ecco. Una santa sociale. Allora diamo subito il numero per intervenire: 800 24 00 24. E quindi sarebbe stata favorevole forse a questa roba incredibile che lo Stato adesso deve anticipare il trattamento del versamento dell'assegno di mantenimento matrimoniale. Oramai la qualunque ti ha colpito. I soldi dei contribuenti si fa la qualunque. Allora, c'è questo emendamento alla legge di stabilità che dice questo: se l'ex non paga il mantenimento, provvede lo Stato per i più poveri, cioè per le donne. In genere sono donne ai quali gli ex mariti non pagano il mantenimento. Se una donna è in uno stato indigente, possiamo dire così, può rivolgersi al tribunale, lo Stato anticiperà. Quando dico, lo dico apposta la parola Stato, voi dovreste vedere la faccia di Oscar Giannino quando dico lo Stato. Sì, no, ma dici bene. Le sopracciglia si aprono immediatamente. No, ma è infinita la serie di adempimenti che coi soldi tuoi e miei ogni giorno aumenta sempre di più. Questo effettivamente mi dà un po' fastidio. Cioè, se penso che un marito moroso perché dice tanto paga pantalone, bravo, non paga la sua ex, un po' mi fa incazzare. Allora, siccome non è proprio raro il caso che gli inadempienti nel versare gli assegni di mantenimento, ecco, cioè diciamo c'è un'elevata componente, adesso mi inimico al pubblico maschile, di stronzaggine maschile su questo. E allora adesso che lo possano fare ancora più a mente leggera, dice, ma tanto ci pensa il tribunale, ci pensa Milan, Giannino e tutti quanti gli altri che pagano. Sì, però attenzione, intanto è un provvedimento alla legge di stabilità, deve passare, però oggi c'è, c'è il voto totale, c'è il voto finale, quindi hai detto c'è il voto totale, c'è il voto è una bella sintesi, il voto finale, sì, quindi passerà, non penso passerà. Ma quando si tratta di dire paga pantalone, cioè lo Stato, siamo tutti. Ma volevo dire, tra l'altro, l'emendamento l'ha proposto la deputata Gea Schirò del Partito Democratico. Io sono assolutamente convinto che sia in buona fede, totalmente volta all'idea, tuteliamo, no? Perché mettere in ballo. Dice che in Inghilterra, per esempio, un provvedimento simile ha abbassato il rischio di violenze familiari nei confronti delle donne. Benissimo, io penso che qui incentiverai invece gli ex mariti furbi. Io, però. No, temo che purtroppo in Italia le cose vengono sempre virate poi verso il difficile. Ripeto, l'abbiamo detto prima di iniziare. Anche qui qualcuno si arrabbierà. Abbiamo ieri apprezzato, secondo me, giustamente i corsi che la Norvegia fa ai musulmani per insegnare loro a trattare le donne. Talvolta mi chiedo se non ne avrebbero bisogno i maschi italiani. Come trattare le donne? Per esempio, se dovete pagare dei contributi alla ex, dovete pagarli. Sì, certo, poi si potrebbe andare avanti nel discorso di come vengono decisi, casi per caso. L'affidamento è la priorità alle mamme. Chiunque ha fatto il conduttore ha ricevuto pacchi di lettere su questo argomento dai comitati dei papà. Però. Esatto. Comunque, chissà se andrà così. Invece, ti è piaciuto Mattarella ieri che ha difeso Banca Italia? Non ti è piaciuto. La considero un'operazione di cover-up. C'è un insabbiamento, secondo me ingiustificata, preoccupante. I grandi quotidiani, il fondo della stampa, contro l'invasione di campo, Marcello Sorgi, tutti pensosamente adesso con le mani, con la testa tra le mani, a dire: ma cosa vogliamo fare? Vorremmo mica metterci davvero a capire che Banca Italia per anni mandava mandava lettere in cui contestava degli atti e nel frattempo autorizzava aumenti di capitale in contrasto con i suoi atti. Vogliamo mica davvero riflettere sul fatto che Consob metteva per iscritto dei diritti di recesso, obbligazioni, e li fissava i due giorni di Natale in maniera tale da solo la coscienza? No, perché questo mette a rischio le istituzioni italiane. Sì, ma in realtà è un insabbiamento. I giornali lo raccontano, non so, Il Fatto, Libero, Il Giornale, al capo dello Stato, cioè, ci sono articoli che raccontano invece di come, esatto, gli ispettori di Banca Italia, oggi c'è un altro racconto anche sul Sole 24 Ore, Sara Monaci, di queste operazioni immobiliari sospette da parte di Banca Etruria e Banca Italia, ma sono operazioni sospette che non emergono così, emergono da ispezioni di Banca Italia. Alle quali però Banca Italia non ha posto in essere in quegli stessi mesi e anni comportamenti conseguenti. Quindi evidentemente a me quello che stupisce è che la critica più salace, se vuoi, di tutto questo non venga da Editoriale ma dalla vignetta di Giannelli, che ragione, oggi ritrae Mattarella che incoraggia il risparmio e dice questa frase: i giudizi ingenerosi su Banca Italia, risparmiateveli. Ecco, così incoraggia il risparmio. Ragione. È la critica più dura che ho visto, è la vignetta di Giannelli. Pensa sul Messaggero Vegas che dice: ma cosa succede se noi non siamo d'accordo su quello che dice l'ANAC? Cioè Cantone. Dopodiché dice: e per favore non ci si faccia obiezioni insensate sul fatto che la Consob ha abolito i modelli probabilistici dei prodotti finanziari. Li ha aboliti invece. Quindi io voglio una sede in cui poter contestare queste cose. Mi inquieta che il capo dello Stato abbia già convinto i partiti e il governo a non fare più la commissione parlamentare d'inchiesta con potere della magistratura, un altro segno dell'insabbiamento. Comunque insabbiamento, dice Oscar, dice questa è una misura di cover up. Chiamateci su questo, chiamateci se volete sul calcio, sull'assegno di mantenimento, su tutti gli juventini disperati. Ma Pierluigi Battista, io ti sostengo, come puoi scrivere un articolo come quello di oggi? A difesa di Leroy Platini, gli hanno toccato Leroy Platini, mannaggia. Non lo so. È proprio lui, cioè non è un omonimo, rassegnatevi. Quel Platini lì, disinvolto incassatore di assegni, non è diverso. È per questo che lo squalificano per 8 anni, se non vorrei dire. È proprio lo stesso di cui avete vantato da sempre, l'intoccabile, elegantissimo. Le Roi. E sul campo era Le Roi. Ci diranno, certo, che lo diciamo perché. Perché tutti nel Torino, io al Milan. Ma no, ma non è questo il punto. Che è un mito, evidentemente fondato sui presupposti falsi. Uno che nell'indagine dice dei contratti se ne occupava mia moglie, un mito calcistico lo è stato, ho su capito, questo, e non si discute su quello che ha fatto, ma è la difesa di un quaquaraquà uno che di fronte a milioni di tangenti su posto risponde chiedetelo a mia moglie. Dai, ma sembra Totò e Peppino, dai, altro che Leroy sul campo e un po' meno Roy, evidentemente. Oh, voglio cari amici di Roma, state attenti perché dopo che vi hanno inflitto non uno ma 4 concerti nel Campidoglio, perché è finita così per il Capodanno, 4 in periferia, quindi significa che la notte voi dovete avete fino alle 3 del mattino in teoria diritto ai trasporti pubblici. Ma cosa succede? Che gli autisti dell'ATAC, che esattamente come l'anno scorso hanno fatto i vigili urbani, hanno tutti depositato, tutti, tantissimi, depositato un certificato, danno tutti a donare il sangue la notte del 31. Ci penserà Tronca, ci pensa Tronca, che fa, li porta tutti sulle spalle. No, comunque, Oscar, ieri noi abbiamo parlato dell'editoriale di Galli della Loggia dicendo: ma dov'è finita la politica meridionalista? È scomparso il sud nel racconto renziano. Ieri tra l'altro è uscita la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, che mette al primo posto Bolzano e all'ultimo posto Reggio Calabria, come secondo provincia. Posto Milano, sì, secondo posto Milano, scesa, terzo posto Trento, però e all'ultimo posto finale. Sì. Allora, Giuseppe Falcomatà è il sindaco di Reggio Calabria. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora, grazie. Sa che Claudio De Vincenti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, oggi sul Corriere, rispondendo a Galli della Loggia, dice: ecco qui i progetti, il 2016 sarà l'anno della svolta meridionalista della politica di governo. Ma lei ci crede, signor lei sindaco? Ci crede? Ma diciamo che la svolta già è iniziata da un anno, almeno a Reggio Calabria, perché questa classifica non rappresenta quello che in realtà sta succedendo nella nostra città. Al di là dei freddi dati, quello che mi viene da commentare su questa classifica è che purtroppo non tiene conto dei miglioramenti che vengono fatti da un anno all'altro e magari continua a mantenere in testa le classifiche città che un po' stanno andando peggio rispetto agli altri anni. Tra l'altro alcuni dati sono del 2014-2013, insomma non rispecchiano quella che è la realtà della nostra città, a maggior ragione per quello che commenta anche De Vincenti oggi rispetto al 2016, uno fra tutti i patti per il Sud che noi a inizio anno andremo a siglare direttamente con la Presidenza del Consiglio, e che diciamo non sono dei pacchetti Colombo come quelli degli anni 70, ma sono dei protocolli d'intesa stipulati direttamente con le città, e sono proposti in qualche modo alle città, riguardano lavori pubblici che sono sospesi per diversi motivi, riguardano la riqualificazione di aree abbandonate per lungo tempo, tutto questo messo all'interno di un unico protocollo che ha il compito di dover accelerare i processi di inizio, di avvio e di ripresa dei lavori e quindi di conclusione. Ma ci sta dicendo che l'anno prossimo troveremo Reggio Calabria in classifica un po' più in alto, questo mi sembra. Se i dati del Sole 24 Ore fossero stati quelli del 2015 e non quelli del 2014, già ci sarebbero stati dei dati diversi. Ne dico uno su tutti: il dato che ci consegna in fondo alla classifica per assenza di servizi ai minori e quindi per assenza di asili nido è un dato che non è aggiornato, perché noi nel corso di quest'anno già abbiamo riaperto in città il primo asilo nido comunale, e gli asili nido comunali non sono servizi pubblici essenziali, ma sono servizi a domanda individuale, quindi teoricamente un'amministrazione in difficoltà potrebbe dire non mi compete. Noi l'abbiamo fatto e a settembre ne apriremo altri due. Però sa sindaco cosa Galli della Loggia risponde proprio a Claudio De Vincenti, che dice no, è tutto bene, l'anno prossimo vedrete, che risponde Galli della Loggia: mi stupisco ogni volta che l'oste autorità ci dice che il suo vino è il migliore e che l'oste governo sia convinto che questa semplice assicurazione basti di per sé assicurare qualcuno. Cioè l'ascoltano adesso molti cittadini del sud, non solo di Reggio Calabria, che come diceva ieri Galli della Loggia poi fanno le file per le poste, la fila per una TAC, e riscontrano poi la differenza abissale che c'è tra il nord e il sud, diciamolo francamente. Diciamo che questa difficoltà e questa differenza è una differenza di anni. Purtroppo il sud, il mezzogiorno in generale, è nei bassi fondi delle classifiche, per usare un termine calcistico, visto che si è parlato anche di Platini, è la fotografia di un paese che da tanti anni, forse il dato più tra virgolette preoccupante è il fatto che sia stazionario, però il fatto che si segni un punto di differenza rispetto al passato è da salutare con favore e con ottimismo. C'è un rapporto diverso tra le istituzioni del sud e il governo centrale, perché qui adesso non dobbiamo consegnare, cioè, la per diverso si dica che funziona con questo governo, questo vuol dire che funziona, perché non c'è il sud piagnone che si lamenta, che va lì col cappello in mano. Senta, questo proposito, si cerca di proporre una nuova classe dirigente che ha delle idee, delle proposte con cose che si possono fare a livello periferico e con cose che devono essere sbloccate. Signor sindaco, a proposito di sostegno e consenso, questo atteggiamento non più piagnone, le posso leggere un pezzetto del Sole 24 Ore che commentava ieri appunto il risultato della sua città? Che per un verso era molto positivo nei suoi confronti, per un verso no. Io le chiedo un commento. Scriveva il Sole 24 Ore Roberto Galullo ieri: fino alla primavera la luna di miele con la città di Falco Matà, 32 anni, avvocato, eletto ottobre 2014, ha retto. E quindi, tant'è vero che nel consenso, continuava poi Galullo, il sondaggio di PR Marketing lo colloca al quarto posto nel gradimento degli amministratori, quindi una posizione molto, molto buona, insomma molto soddisfacente. La sensazione, continuava poi il pezzo, però, è che il feeling abbia le ore contate e che la preghiera ai piedi della Vergine resti davvero per tutti l'unico sollievo in un territorio dove il deficit, eccetera. E poi è un giudizio troppo pesante questo, lei dice che stanno già cambiando le cose. No, ma guardi, intanto io inviterei Galullo a venire in città, peraltro in città c'è già venuto perché è stato anche premiato come giornalista. E poi va contestualizzata quella frase che è detta all'interno della Basilica Cattedrale nel giorno delle celebrazioni per la Santa Patrona, quindi è chiaro che non è l'unico programma dell'amministrazione comunale quello di non è puntare sulla Madonna della consolazione. No, assolutamente. Poi do anche due dati che probabilmente Galullo non conosce. Lui parla di lavori fermi da tanto tempo. Noi qui abbiamo riaperto 19 nuovi cantieri in città, ma non perché siamo bravi, perché c'erano soltanto, evidentemente non c'era l'interesse a riaprirli. E parlo ormai delle uniche fonti finanziarie alle quali le amministrazioni comunali attingono, che sono quelle dei fondi comunitari. Un'altra cosa che probabilmente Calullo non sa, e neanche la classifica del Sole 24 Ore, è che rispetto a quei dati sull'ambiente che ci relegano anche in questo caso all'ultimo posto, Reggio oggi raggiunge il 50% di raccolta differenziata. E allora noi a questo punto la prendiamo sul serio, vediamo l'anno prossimo. Guardi, vi dico questa cosa: noi partivamo dall'8% l'anno scorso, cioè una cosa davvero infima, e sappiamo quanto la raccolta differenziata sia importante non soltanto per l'ambiente ma anche per la tasca dei cittadini. In meno di un anno raggiungiamo il 30%, ma la cosa più importante è che metà città oggi fa la differenza da porta a porta, un cittadino su due. E credo che, insomma, questi siano i punti. Si vede anche da questo, insomma, i punti da cui può ripartire una città. Noi, sindaco, la ringraziamo, ovviamente. In bocca al lupo, Giuseppe Falco Matà, sindaco di Reggio Calabria. Comunque, se la incontra, me la saluti, la Madonna, perché io ci tengo. Se è un buon canale, io ci tengo. Va bene, tutto. Prendiamo tutto. Allora, qua chiamano tutti Carosca sulla questione degli assegni familiari. Ma certo, vedo già tanti mariti che dicono: ma tanti mariti arrabbiati. No, attenzione, questo emendamento intanto prevede che se non paga l'ex coniuge verrà pagato dallo Stato l'assegno di mantenimento, ma solo nei casi di persone indigenti, e quindi il tribunale valuterà se, cioè, non so quali sono le soglie di povertà, ma verranno stabilite. Comunque, Fabio da Vicenza, buongiorno, che ci vuole dire? Sì, buongiorno a lei. Era sull'assegno di mantenimento, appunto. Nonostante venga da un esponente del PD, trovo che sia un buon emendamento e spiego perché. Il fatto che i mariti non paghino si scrive nel più generale questione del fatto che lo Stato non applica la legalità, cioè ognuno fa come gli pare, lo Stato non fa assolutamente nulla per fermare l'illegalità, che in generale promana più dallo Stato che dai cittadini, visto che lo Stato è il più inadempiente in assoluto. In compenso, se un marito non paga la moglie e la moglie è indigente, se la moglie non paga le bollette, gli manda Equitalia. Allora, ho capito, però alla fine sa qual è il paradosso? Che lei quindi dice: il marito non paga e paga lo Stato, quello Stato stesso inadempiente. Certo, che lui esattamente. È un gatto che si morde la coda. Chi è inadempiente paga. È giusto. Cioè, se il marito non paga, lo Stato fa in modo che il marito paghi. Questo è uno Stato che funziona così, va bene? Invece lo Stato prima se ne frega e il marito gli lascia fare quello che vuoi. Secondariamente se ne frega, perché se la moglie va e quindi è giusto che paghi. Paga le bottiglie, gli manda anche Equitalia. Però effettivamente io mi metto nei panni di due che non sono sposati e che devono pagare per due che sono sposati, perché un ex marito non paga la ex moglie. Impareranno a votare. O impareranno a sposarsi. Temevo una delle due non è male. Temevo, impareranno a sposarsi. O ti sposi o cambi voto. Cioè, impareranno a sposarsi, così se si separano lo Stato paga loro la separazione. Bah, vabbè. Paolo da Genova, buongiorno. Grazie Fabio da Vicenza, ovviamente. Paolo da Genova, buongiorno. Buongiorno. Io sono d'accordo con Fabio da Vicenza. Nel senso che ritengo che sia un intervento profondamente sociale, nel senso che la donna non viene lasciata in completa balia del meccanismo di recupero debiti al quale, come diceva molto spesso, viene sottoposta una persona che non riesce magari a pagare semplicemente le bollette. E questo però, quando si dice pantalone paga, si dice quando paga pantalone e nessun altro paga. In questo caso invece le responsabilità dell'uomo rimangono assolutamente invariate, anzi c'è una responsabilità maggiore perché ha lasciato una persona in stato di indigenza. Quindi ritengo che sia addirittura un modo ancora più forte per sensibilizzare l'uomo, di recuperare. Sì, capito, sì, capito di... Oscar, vedi che tu eri molto molto sei molto contrario a questo provvedimento. No, a me quello che colpisce mi colpisce, ma non mi stupisce, ma mi colpisce ogni volta, è l'automatismo con il quale ciascuno, comunque una fascia assolutamente maggioritaria, che quindi rispetto, automaticamente quando vede che lo Stato si estende sempre di più a un ruolo di sostituzione del rapporto tra privati, perché la questione della famiglia è un'unione di privati, comunque c'è sempre una ragione per la quale tutti dicono: ma è bene che faccia, bisogna garantire, intervenire. In questo caso è bene per la donna che viene lasciata in balia, no? Che la donna povera, che la donna in difficoltà. Perfetto, allora mettiamo lo Stato in ogni rapporto tra privati. Sono, la mia è una contrarietà per ragioni, cioè c'è una coerenza in quello che penso. Magari ridono tutti su questa coerenza. Lo Stato assume troppi ruoli impropri, troppi. Se bisogna valutare ogni rapporto tra privato come un rapporto in cui, se c'è uno squilibrio tra due persone, viva lo Stato che interviene, ogni rapporto tra individui è un rapporto tra persone distinte, cioè diseguali. È sempre così. Cosa volete mettere? Lo Stato sempre dovunque in mezzo? Io no. Molti di voi sì, questo me ne rendo conto. Però insomma, questo è un tema, mi sembra, caldo, sul molto quale la gente ci chiama e ci fa piacere. 800 24 00 24, continuate a chiamarci su questo tema. Tra poco avremo anche un'altra, il direttore del Mattino, un'altra grande vittoria della Bernardini De Pace, direi, della Bernardini De Pace. La Bernardini De Pace no, è totalmente contraria a questo provvedimento, anzi proprio dice che è assistenzialismo puro da parte dello Stato. Io ancora una volta sono d'accordo con lei, devo dire la verità. Quindi la vuoi sindaco di Milano a questo punto? Ma devo dire che Sala e tutti lo sappiamo, ma rispetto a quel che si vede dall'altra parte è tutta la vita Bernardini De Pace, cioè, chi vogliamo mettere? Va bene. Lei Sallusti, rispetto ad altri nomi che girano. Ma no, dai, Sallusti non abbiamo, gira più. Ma Sallusti lo abbiamo invitato fin dall'inizio, era ovvio che lui non voleva nient'altro che il referendum, cioè, il sondaggio che diceva male, che non era lui il candidato. Quindi, vabbè, sai. Comunque noi avremo anche ospite il direttore del Mattino, Alessandro Barbano, tra poco, per capire se, come ci ha detto il sindaco di Reggio Calabria, è tutto bene, tutto a posto, l'anno prossimo la politica meridionale una lista darà i suoi frutti. Fai smentire con due rapide notizie dalla Lombardia, i luoghi comuni per cui certe cose capitano solo a sud. Il primo, ASL di Varese, dagli anni 90, una persona totalmente non vedente, che invece viene sorpreso a fare, a vedere il benissimo. Sub. No, non so, a fare i giochi di guerra e a fare i sub. Altra episodio, questa volta mobbing, impiegato, fedele, onorato, in questo caso, di una grande azienda di trasporto pubblico lombardo, denuncia, ha ragione, un dirigente della società, che per peculato, e adesso naturalmente non lo possono cacciare, ma l'hanno filato in un passacarte, diventa passacarte, non fa nulla, passacarte. Ecco, queste cose capitano in Lombardia, a io Milano, citato a Varese, diciamolo, Andrea Franzoso, sì, è colui che ha denunciato tutto in Ferrovie Nord, denunciato il presidente, ha denunciato per peculato, 500.000 euro, è finita a fare il passacarte, ecco, mobbing totale. Quindi l'Italia non è solo il sud, tutto no, il mondo, no, no, in Italia è paese. Tra poco. Allora, caro Oscar, a un ascoltatore che via WhatsApp ci dice: ma Franzoso, che avete citato, è un tipico cognome varesino, si coglie dell'ironia unita al vago razzismo in questa, ma in realtà tra l'altro l'ascoltatore sbaglia, Franzoso è il buono, colui peraltro, che ha denunciato Norberto Achilli il presidente, che poi si è peculato 500.000, ho l'idea che è più facile che Achilli il presidente sia del nord, mentre il buono, se bisogna prendere per buona l'estrazione dei cognomi, forse esatto, buono, esatto, in questo caso Antonio Franzoso è quello che ha denunciato anche, tutto. C'è anche stato un altro ascoltatore che dice: hai ragione, che dice, hai ragione Oscar Giannino, uno in Lombardia, mille in Campania. Questo è la percentuale di, tu hai citato il non vedente, il non che vedente, truffava, che truffa il sub. Però non so, visto che questo è materiale, stiamo parlando anche di nord e sud, della classifica del Sole 24 Ore di ieri, salutiamo il direttore del Mattino, Alessandro Barbano. Buongiorno direttore, eccoci qui. Buongiorno a voi. Perché dobbiamo parlare un po' di questo sud che il sottosegretario De Vincenti oggi sul Corriere rassicura, rispondendo all'editoriale di ieri di Galli della Loggia, verrà aiutato con politiche meridionaliste a partire dal 2016. Ci dobbiamo credere? Prima il sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà, ha detto di sì. Ma in parte, direi in parte, qualcosa c'è. Se pensiamo alla totale amnesia delle politiche nei confronti del Mezzogiorno fino all'anno scorso, certamente una piccola inversione di tendenza c'è, e come sappiamo nella legge di stabilità è stato inserito il credito d'imposta quadriennale per le imprese che investono, e poi ci sono i patti su misure specifiche, su progetti specifici, che sono 15, che il governo fa con le regioni, con le città metropolitane del Mezzogiorno. Il punto è un altro, che questo basti a invertire un divario che pare crescente, ecco, a questa domanda risponderei di no, perché nel frattempo, come abbiamo visto, Milano mi pare che sia finita al secondo posto, esatto. O sbaglio. Sì, ecco, esatto. Allora uno dovrebbe chiedersi come mai e come è finita al secondo posto in un anno Milano, se solo un anno fa parlavamo di Milano come la patria della corruzione, degli scandali, ricordate quello che è, no? Dei ritardi, come mai? Firenze mi pare pure che sia finita, è andata molto avanti, no? In realtà una delle componenti tra i diversi 6 classi indicatori è proprio la differenza di reddito che la fa salire Milano. È evidente, è non c'è dubbio, però voglio dire, è chiaro che il governo finalmente da quest'estate ha messo mano al Mezzogiorno con delle misure che però non paiono sufficienti. Certamente salutiamo con favore questa attenzione, però che questa sia la politica meridionalista di cui il Sud ha bisogno, qualche dubbio ancora lo porteremo. Direttore, senta, non è un mistero che i presidenti delle regioni del Sud, tutti del PD, abbiano un rapporto non di medesimazione, cioè non sono filiazione e emanazione diretta di Renzi, anzi talora nascono in diretta contrapposizione, ma con una forza rivendicazione. Emiliano sicuramente, ma anche De Luca. Ecco, allora, domanda, per questa nuova rifocalizzazione, vedremo con che effetti, di politica del Sud, il rapporto che c'è tra governatori del PD non renziani e Renzi aiuta o è un ostacolo? No, è un ostacolo certamente, anzi è un ostacolo perché mentre sarebbe importante che il Mezzogiorno facesse gruppo, squadra, perché uno dei problemi del Mezzogiorno è proprio la mancanza di peso specifico politico, no? Perché questo indubitabilmente è la causa di tutto ciò che è accaduto in questi 20 anni. Il Mezzogiorno ha perso rappresentanza politica, ha perso protagonismo nel credito, nella finanza, nell'impresa, nell'editoria, in tutti i settori in cui era rappresentato. È evidente che una cordata che si ponga in antagonismo, così come hanno fatto i governatori del Mezzogiorno, non è il modo di recuperare un protagonismo e costruire una dialettica positiva con il governo Renzi, perché firmare il referendum contro le trivelle e quindi contro l'autonomia energetica del Mezzogiorno e del paese, che ci porta indietro di 20 anni, costringendo poi il governo a quella modifica del decreto per scongiurare il referendum, è una modalità non innovativa, diciamo così. Non innovativa. Però, direttore, cioè, ci faccia capire quali sono le politiche meridionaliste che il Sud attende, non certo le politiche assistenzialiste, qualcosa ci ha già detto, come il credito d'imposta quadriennale in legge di stabilità, perché vista dal nord, sa, molti dicono, soprattutto vista dal nord-est produttivo e ricco, pensano che nei campi di come la sanità e in altri campi, soprattutto la sanità, il Sud sia un luogo dove si drenano soprattutto le risorse che vengono prodotte invece dal nord del paese. No, assolutamente, anzi io credo che la logica distributiva e assistenziale andrebbe completamente tagliata, azzerata, perché è improduttiva e struttura classi dirigente parassitarie nel Mezzogiorno. Sicuramente vanno bene i patti, perché i patti impegnano il governo direttamente su progetti specifici, anche surrogando l'inadempienza e la paralisi dei governi locali, per esempio penso Bagnoli e gli accordi con le regioni che funzionano danno degli obiettivi. Va bene il credito d'imposta, ma il bonus assunzioni con lo sgravo contributivo pieno al 100% per il 2016 e per il 2017, come si pensava e si era detto in estate, sarebbe stata una misura di vantaggio per indurre gli investimenti nel Mezzogiorno da parte delle imprese straniere e di altre parti d'Italia, e soprattutto per indurre anche la rendita del Mezzogiorno a rischiare. Cioè, il vero problema del Mezzogiorno, proprio in un'ottica liberale, è quella di ristabilire le condizioni di un mercato interno. Certo, quindi no assistenzialismo, ma più mercato. Quindi le condizioni di un mercato interno si stabiliscono eliminando quei fattori dissuasivi agli investimenti. Poi è chiaro che ci sono condizioni del funzionamento dei servizi pubblici, della sanità, della sicurezza, dove uno può dire dei servizi, per esempio della scuola, degli asili nido, sì, dove uno può dire: siccome il mezzogiorno ha sperperato, colpa sua, peggio per lui. Che è un discorso che prende molto piede tra la gente comune. È un discorso che funziona, oppure può dire: il capitale sociale di cui tanto si parla non è un dato antropologico della malignità del mezzogiorno, ma è l'effetto di un funzionamento della democrazia sbagliato e di politiche che sono mancate. Allora mettiamoci sulle spalle questa zavorra di questa parte del paese e facciamo in modo, come ha fatto la Germania, che per 10 anni, per 15 anni si punti a recuperare questo ritardo, perché un paese più omogeneo è un vantaggio per l'intero paese. Anche quello che scriveva ieri Galli della Loggia con le critiche al sud, però diceva lo stesso Galli della Loggia: senza il sud non c'è l'Italia, no? Galli della Loggia dice una cosa però assolutamente priva di fondamento, cioè che il mezzogiorno sia disanimato e privo di capacità progettuale di dibattiti. Questo non è vero. Il mezzogiorno è capace di produrre dibattiti, autocritica anche attorno a un'identità che è più forte di altre parti del paese. Il problema è che non ha peso specifico e non ha voce. Se gli industriali napoletani organizzano, come è accaduto, una grande assemblea alla sede della RAI di Napoli con tutti gli imprenditori del mezzogiorno, e il governo invia il ministro Del Rio, presentano una piattaforma progettuale in una bella manifestazione, non c'è una riga sui giornali nazionali. Se questo accade a Milano, ci va Renzi, e quello diventa uno dei titoli che aprono i giornali. Il peso specifico. La ringraziamo, direttore. Dobbiamo dare spazio anche a qualche telefonata. Grazie a Alessandro Barbano, direttore del Mattino. Interessante anche questo del peso specifico nord e sud. Io per esempio penso che l'informazione che non si occupa delle sparatorie a Napoli tutti i giorni, lo dico sempre, è una cosa per me incomprensibile. Ieri in questo caso il parrucchiere che denuncia il racket, l'estorsione, sta nel pieno centro di Napoli tra il quartiere Forcella e il quartiere Spagnoli, e gli si abbatte più del 50%, nessuno ci va più a tagliarsi i capelli. Ieri, quando contrattata la trasmissione, lui non se l'è sentita di venire in trasmissione, questo per darti l'idea. Sui giornali italiani io non vedo traccia di tutto questo. È vero, è una storia abbastanza incredibile, anche perché lui dice: io non mi muovo da qui e denuncio il racket da qui. Allora, Rita ci chiama da Trento, buongiorno Rita. Buongiorno, io volevo solo, ho sentito che c'è aperto un grosso dibattito sull'anticipo degli assegni di mantenimento per i figli. Lei che pensa? Allora, in Trentino e in Alto Adige questo provvedimento già funziona da anni. Cioè? Se ci sono dei genitori, non detto che siano sempre padri, inadempienti e quindi non versano gli assegni di mantenimento nei confronti di figli minori, interviene la provincia, ovviamente se ci sono condizioni di reddito disagiate, nemmeno disagiate, diciamo da medio a disagiato. E lei lo trova giusto? Lei lo sa che il livello medio del Trentino Alto Adige è il livello alto per il resto d'Italia. Sì, però aspetti, arriva immediatamente la segnalazione anche alla Procura della Repubblica nei confronti dell'inadempiente, e la Procura della Repubblica apre un fascicolo, oltre a mandare il tutto all'ufficio riscossioni di Equitalia per cercare di recuperare il credito. Il problema è che si parla di figli minori e il tetto massimo di assegno non è quello che poi viene indicato nelle separazioni o nei divorzi, o se ci sono coppie di non sposati, perché anche per loro funziona. Ci sono dei provvedimenti del giudice, ecco. Cioè, mi sembra che lei sia favorevole per come ne parla, mi sembra che sia favorevole a questo tipo di provvedimento. Ma sapete, recuperare gli assegni in altri casi è complicatissimo e anche costoso, è lunghissimo. Cioè praticamente i figli diventano maggiorenni prima che prendano i soldi che secondo quindi anticipati secondo dalla provincia di Trento. La ringraziamo Rita. Andrei da Bruno da Roma, così chiudiamo un po' il giro anche di tutta Italia. Bruno, buongiorno. Buona giornata a lei. Buonasera. E della trasmissione ci date sempre in compagnia e notizie. Bene. E io volevo domandare, siccome si parla sempre di queste separazioni che si separano tutti questi giorni, non si sposano perché c'hanno paura, perché se succede qualcosa che non fanno d'accordo gli portano via a casa, non rimangono senza niente. Ma lo Stato dovrebbe riguardarla questa legge, dovrebbe costringerli a sposare, fa conto a casa alla donna, deve essere più severo più severità con i mariti. Ma che vuol dire severità? Lo no, Stato? Non ho capito se secondo lei lo Stato è troppo condiscendente con le donne. È troppo condiscendente con le donne, lei dice. No, perché fa conto, io sono mio nipote, ho quasi 40 anni e non si sposa perché c'ha paura che le donne hanno... Che gli pigliano la casa, cioè, poi. Questo. Difendere più gli uomini, insomma, questi uomini ai quali viene portata via la casa. A me, per esempio, non capiterebbe, visto che la casa è intestata a mia moglie. Ah, hai risolto il problema alla radice. Va direttamente sotto il ponte. Io l'ho capito qual è il tuo punto. Ecco perché sei favorevole alla misura, perché nel caso vi separate è tua moglie che deve dare l'assegno a te. Non avevo colto questo sto scherzando, non è per quello. Comunque, insomma, caro Oscar, ci siamo anche oggi. Abbiamo finito con Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fosconi. Io volevo commentare il fatto che Banca d'Italia ha autorizzato il conto da più di 100.000 proprio a MPS adesso, più di 100.000 euro col bail-in. Vergogna. Ce l'hai anche sonorizzata, dai, ma è ridicolo. Poi dicono che loro sono sopra i dubbi, non facciamo la commissione d'inchiesta. Com'è, scusa? No, un pernacchiotto simpatico. Va bene, con Peter Mescapè in regia ci troviamo domani alla stessa ora. A risentirci.